La Cudi Podcast. Dialoghi sul cospirazionismo a partire dal libro di Volume 1, La Cudi Complotto. Edizione Allegre, Roma, 2021. Settima puntata. Bastoni, le mazze stanno lì, poi gli danno l'ordine di sparare lacrimogeni e di fare la carica. La polizia ci inseguiva da tutte le parti e ci avevano dispersi e divisi in tanti piccoli gruppi, anche delle trasversali, non si respirava più dal fumo. A corso Traiano ci arriviamo di nuovo e vediamo un campo di battaglia incredibile. Era successo che stavano cominciando a tornare a casa gli edili e gli altri operai che abitavano nella zona, che non avevano fatto lo sciopero, che non sapevano un cazzo, tornavano a casa e videro tutto sto fumo, tutta sta polizia, sta via piena di pietre, di cose. Allora si unirono subito ai compagni e cominciarono a buttare materiale edile in mezzo alla strada, a costruire barricate, tutto in mezzo alla strada mettevano e facevano le barricate con l'automobile. Benvenute e benvenuti al settimo episodio della Cudi Podcast, la serie di conversazioni con Wu Ming Uno a partire dal suo libro La Cudi Complotto, pubblicato da Edizioni Allegre nel marzo scorso. Un libro che, malgrado finora sia stato poco recensito sui media mainstream, come ha lamentato anche un'attenta osservatrice e divulgatrice come Loredana Lipperini, in realtà sta circolando moltissimo e credo sia già alla soglia della seconda ristampa. Soprattutto un libro che sta facendo molto discutere perché affronta il tema del cospirazionismo da traiettorie e punti di vista decisamente diversi da quelli che siamo stati abituati a considerare. Traiettorie e punti di vista spiazzanti, perturbanti, che hanno a che fare con la storiografia ma anche con la magia e l'antropologia, la pop culture, come ben sanno coloro che hanno ascoltato le sei podcaster che mi hanno preceduto e ovviamente chi ha già letto il libro. Chi vi parla è Andrea Olivieri, sono a mia volta un autore pubblicato da Allegre in una particolare collana che si chiama Quinto Tipo, di cui il mio ospite Wu Ming Uno è fondatore e direttore editoriale. Innanzitutto benvenuto anche a Wu Ming Uno. Eccomi, ciao. Vorrei iniziare questa conversazione prendendola un po' più larga rispetto a questo tuo libro. Un libro nel quale, come avete discusso in maniera puntualissima con Luca Casarotti, ti sei dovuto cimentare, spesso aiutato anche dagli altri membri del collettivo Wu Ming, nel definire e persino inventare nuovi concetti, senza i quali sarebbe stato impossibile leggere con precisione il fenomeno QAnon, ricostruire, come dicevate con Luca, genealogia e morfologia. Ecco, vorrei quindi iniziare da una domanda che ti è già stata posta molte volte in passato, che credo apra nuovi spazi di riflessione dopo la scrittura di La Cudi Complotto. Vorrei chiederti di definire per chi ci ascolta alcuni concetti che soprattutto negli ultimi anni hai usato spesso in relazione al tuo e al vostro lavoro di narratori. Mi riferisco ai concetti di ibrido narrativo e di uno, gli oggetti narrativi non identificati, una metafora ufologica che poi è stata ripresa per dare il nome alla collana Quinto Tipo. Tra l'altro ho letto che alcuni critici hanno di recente usato a loro volta metafore ufologiche molto simili alle vostre, quasi delle parafrasi, anche se non dichiarate, per tentare di circoscrivere un campo della produzione letteraria italiana contemporanea che a sua volta sembra coincidere molto con la definizione di New Italian Epic che tu avevi proposto già nel 2008. In relazione a tutto questo vorrei anche chiederti di raccontare come mai, al netto del fatto che forse sarebbe stato discutibile pubblicare un libro firmato da te nella collana di cui sei anche direttore, Allegre abbia deciso di pubblicare La Cudi Complotto, un libro che tu stesso hai giudicato estremo nella sua ibridazione, in una collana di saggistica pura per quanto tutt'altro che leziosa come tempi moderni. Sì, il punto era, oltre al non creare una situazione para-incestuosa, morbosa, come hai anticipato tu, di pubblicare nella stessa collana che dirigo, il vero motivo era che volevo arrivare dalla direzione più inattesa possibile. Quindi una collana di saggistica proporre un libro fortemente ibridato, un vero e proprio uno, un Unidentified Narrative Object, sulla linea che ho inaugurato nella mia personale produzione, direi da Point Lenana del 2013 in avanti, vale a dire un libro che nel cercare di rispondere alla questione su come raccontare una storia con ogni mezzo necessario non si pone problemi di steccati, di recinzioni né tra generi né tra tipi testuali, incorpora il suo stesso farsi, il suo stesso scriversi all'interno di un flusso che sia narrativo, sia espositivo, argomentativo, cercando di mantenere costante il ricorso alle tecniche del romanzo, tutto quell'arsenale di stratagemmi narrativi, di scelte stilistiche e di uso dei tempi verbali che il romanzo sperimenta da diversi secoli e che sono a tutt'oggi le migliori tecniche che si possano utilizzare nel raccontare una storia, mantenere costante quel ricorso lì, ibridandolo con una scrittura più saggistica, più giornalistica, a tratti anche tecnica, come nel caso di Un viaggio che non promettiamo breve, il mio libro del 2016, dove c'erano lunghe incursioni nell'economia dei trasporti, nella logistica e nei suoi dilemmi, questioni relative a reti infrastrutturali continentali. Qui c'è un irrompere continuo di un'attitudine che secondo Deleuze e Guattari è quella della filosofia, cioè creare concetti. C'è una scrittura tesa a definire nella maniera più precisa possibile un arsenale concettuale, per parlare di cospirazionismo, messa a contatto e anche a contrasto con una scrittura che invece sta raccontando delle storie, cercando anche di farlo con empatia nei confronti dei personaggi che si muovono all'interno di questo mondo, quello delle fantasie di complotto e nello specifico di QAnon. Si potrebbe dire che oltre ai concetti ci sono gli affetti, c'è la filosofia, ma c'è anche la letteratura. Poi chiaramente c'è l'inchiesta, la ricostruzione fattuale più precisa possibile degli accadimenti, c'è il tentativo di analizzare tutto questo in una prospettiva anticapitalistica. È per questo che si può dire che è un libro estremo nella sua ibridazione. Il fatto che esca in una collana che di solito ospita saggi, per quanto non paludati, saggi militanti, saggi molto ben scritti, anche in altri titoli della collana altri autori hanno fatto ricorso a tecniche più letterarie per poter rendere conto di un lungo lavoro di inchiesta, però un libro così in questa collana non era ancora uscito. Chi compra la Q di complotto aspettandosi un saggio, un'esposizione, si ritrova di fronte a un oggetto che lo sfida, che tradisce le aspettative senza deluderle, perché è molto diverso tradire le aspettative. Le aspettative possono essere anche tradite in nome di qualcosa di meglio di ciò che ci si attendeva. Invece quando un'aspettativa è delusa, vuol dire sempre che si è andati in peggio. Ecco, un libro che stupisca, e del resto è un libro che teorizza l'importanza dello stupore, che incanti, che lasci anche perplessi, che lanci continuamente dei guanti di sfida a chi si aspettava un saggio, e basta. Leggendo la Q di complotto e ascoltando la voce del tuo io narrante, e in una prossima domanda spiegherò perché parlo di ascolto riferendomi a una lettura solitaria, ho avuto l'impressione di uno scarto e un'evoluzione, se vogliamo, del tuo approccio all'utilizzo dell'autofiction. Hai già chiarito in diverse occasioni che quel io che ha il nome dell'autore è comunque a sua volta un personaggio. Ci ho ripensato per due ragioni. La prima riguarda quanto io stesso ho sperimentato da autore nei 3 anni durante i quali ho lavorato al mio libro per Alegre, un periodo in cui tu più volte mi avevi spronato a stare nella storia per raccontare la ricerca che l'aveva prodotta, mentre io tentavo a volte di svignarmela da quel piano, per lo più per il timore di perdere la misura e finire in sostanza a parlare dei cazzi miei anziché delle storie che volevo raccontare. Ricordo anche che avevi ragionato molto sulla stessa questione con altri autori della collana, a dimostrazione del fatto che questo è un terreno scivoloso, non fosse altro perché abbiamo visto altri restarci imbischiati, finendo per invadere abusivamente gli spazi delle loro stesse narrazioni, se non persino soverchiarle di se stessi, qualcosa di quinto tipo, peraltro non è mai successa a mio avviso. La seconda ragione invece ha a che fare con i tuoi libri solisti, che non sono dichiaratamente dei romanzi. In tutti, in un modo o nell'altro, hai accettato la sfida e sei entrato nella storia. Ma stavolta ho l'impressione appunto di uno scarto tra l'accusa di complotto, un viaggio che non promettiamo breve, e tra quest'ultimo è Point Lenana, peraltro scritto a quattro mani con Roberto Santachiara. È uno scarto che forse ha a che vedere con quanto già discutevi con Stefania Consigliere riguardo al problema del dover maneggiare materiali prodotti in contesti ultra reazionari, spesso ripugnanti, senza però negare l'umanità di chi li aveva prodotti. Una posizione che rimanda a quanto scriveva Mariano Tomatis su JAP già nel 2015, in un articolo che contestava la pretesa di neutralità del giornalismo scientifico. L'ingresso di un autore, scriveva Mariano, in lavori di non fiction è più che sdoganato quando si tratta di raccontarsi nell'atto di sorseggiare una birra o raggiungere in taxi i luoghi chiave delle vicende, ma guai a esprimere un dilemma etico che trascenda il proprio ombelico o sottolineare il disagio di fronte a un paradosso. E ancora più avanti aggiungeva che una delle strategie testuali che consentono di unire al rigore la possibilità di incidere su piani che trascendono la mera divulgazione è l'engagement personale nel discorso. Ti chiedo quindi se tutto questo porta a dover considerare come prioritaria la responsabilità etica dell'autore, al contrario di quanto si faccia in molti cosiddetti ibridi narrativi, ma anche nel reportage, nella divulgazione giornalistici e soprattutto nell'uso di nuovo molto diffuso dell'autofiction, appunto. E se quindi la scelta di stili, registri e generi, ovvero gli espedienti narrativi, debbano venire dopo e non precedere questa assunzione di responsabilità rispetto alla materia da raccontare, ma anche alla propria autobiografia. Si parte sempre da un problema. In questo caso qui il problema mi si è manifestato quando si è ipotizzato un ruolo diretto del nostro libro Q e addirittura di alcune nostre imprese come Luther Blissett risalenti agli anni 90 nella genesi di QAnon, no? E quindi sono partito da una problematizzazione. C'erano delle cose che non quadravano, che andavano ricostruite. La problematizzazione diventa l'esigenza di raccontare una storia, cioè di occuparsi di quel tema e, nel mio caso, di farlo raccontando. Quindi c'è una storia che è al tempo stesso un problema o un grumo di problemi. La cosa migliore da fare quando mi trovo in questa situazione e voglio scriverci sotto un libro è ragionare su cosa è necessario. In questi libri che hai nominato, da Point Lenana in avanti, ogni volta mi è sembrato assolutamente necessario, imprescindibile, mettere l'io narrante di chi scrive, di chi fa l'inchiesta, all'interno del flusso della narrazione. Perché questo permetteva di esporre in presa diretta i vari problemi, i dilemmi, i dubbi deontologici, metodologici, etici dello scrivente di fronte alla materia che sta trattando. Il modo più diretto per porre questi problemi è quello di mettersi proprio all'interno del flusso e mostrarsi, rappresentarsi mentre ci si ragiona sopra e si cerca di risolvere un problema dopo l'altro. E quindi la scelta dell'io narrante, del personaggio che interpreta l'autore, viene di conseguenza, viene dopo. Perché il personaggio che interpreta l'autore? Perché una volta che ti metti sulla pagina, come ben sai, non sei già più tu, è già un personaggio, anche se tu raccontassi tutte cose che ti sono accadute davvero, cercando di essere il più preciso e dettagliato possibile, comunque quello lì sulla pagina non sei tu lo stesso, è comunque un personaggio a cui capitano le stesse cose che sono capitate a te. Per forza di cose, nel tornire letterariamente gli aneddoti, nel usare per descrivere quelle situazioni parole che non avresti usato mentre ti capitavano, nel ragionarci a mente più fredda, nel avere questo sguardo retrospettivo su te stesso, stai costruendo un personaggio. C'è una differenza tra la persona che sta scrivendo e la persona che viene scritta. scrivere di sé è sempre autofiction, anche quando quel che viene raccontato è tutto fattualmente verificabile. Questa è forse un'interpretazione estesa di autofiction rispetto all'utilizzo che si fa di solito di questo termine, che negli ultimi anni è molto in voga. In realtà è antichissima l'autofiction. Quest'anno si sta celebrando Dante, la Divina Commedia è un chiarissimo esempio di autofiction, è probabilmente l'opera di autofiction più famosa di tutti i tempi. Però sarebbe stata autofiction anche se lui avesse raccontato tutte cose che gli erano capitate davvero, per il fatto di raccontarle in terzine di endecasillabi, di dover trovare la rima, usare parole che garantissero la tenuta poetica, anche per semplicemente la scelta dell'ordine in cui disporre i vari episodi, avrebbe comunque fatto un intervento di tipo autoriale, letterario, che conteneva in sé già l'elemento della finzione. Il ricorso all'autofiction, dicevo prima, non è a priori, è frutto di un ragionamento, dipende sempre da quel necessario. Non mi stancherò mai di ripetere che quando si dice raccontare storie con ogni mezzo necessario, l'enfasi va posta sul necessario, non su con ogni mezzo, perché se tu togli l'elemento della necessità, dell'urgenza, del bisogno che senti in quel momento di usare esattamente quella tecnica, di usare esattamente quello stratagemma, di usare esattamente quello stile, quelle parole, se togli l'elemento della necessità, rimane ciò che fanno molti autori di autofiction contemporanea o di non fiction creativi, ibridazione, cioè usare indifferentemente postmodernisticamente ogni mezzo che gli passa per la testa di usare. Quindi molto spesso ci si trova di fronte a delle raccolte di vezzi, di capricci autoriali, di meri divertissement. Ecco, questa non è la direzione che ho scelto di intraprendere, e gioco forza perché sono un membro del collettivo Wuming, la nostra poetica non potrebbe essere più distante da quella lì, e anche le scelte che caratterizzano la collana che dirigo, Punto Tipo, vanno in questa direzione qui. Necessario è la parola più importante all'interno di quella massima. I due capitoli finali della prima parte del libro si intitolano La virulenza illustrata e Burnout, e le reazioni che hanno causato in alcuni lettori nelle scorse settimane sono significative innanzitutto di quanto lamenta il nostro beneamato editor Pietro De Vivo, quando commentandole ci ha espresso la preoccupazione che l'orizzonte di attesa di molti lettori ormai non contempli altro che una scrittura piana, media, piatta. È successo infatti che Allegre ha ricevuto alcune mail che segnalavano in quelle pagine un refuso, che consisterebbe nella totale mancanza di punteggiatura. I due capitoli sono in realtà citazioni dalla Violenza illustrata e Blackout di Nanni Balestrini, e sono un passaggio nel significato di attraversamento, di soglia, che a me pare essenziale nell'Acù di Complotto. L'introduci scrivendo che ci sarebbe voluto Nanni Balestrini per rendere la concitazione il formicolare di quanto avvenuto sul versante QAnon nel 2020. E da quel momento inizi a raccontare proprio nel suo stile, quello dei suoi romanzi, che aveva come obiettivo dichiarato quello di rendere sulla pagina scritta la lingua parlata. Abolendo la punteggiatura e organizzando le pagine in blocchi che chiamava l'asse come nella metrica romanza, Balestrini risolveva, lo dico nelle sue parole, l'inutilizzabilità della semplice trascrizione, che priva di dimensione sonora abolisce ogni espressività. Inoltre aggiungeva, quasi rispondendo ai tuoi segnalatori di refusi, che la mancanza di punteggiatura è anche una sollecitazione al lettore perché applichi mentalmente sul testo intonazioni personali non costrette dalla gabbia sintattica determinata dalla punteggiatura nella lingua scritta. Un'esperienza che personalmente avevo fatto leggendo alla fine del liceo per la prima volta il suo romanzo Gli Invisibili, e provando dopo poche pagine una curiosa sensazione di ascolto della voce narrante, un'esperienza che definirei musicale e oltremodo immersiva. Commentando la scelta, tu hai posto l'accento sulla necessità che avevi di rendere la concitazione degli eventi. A me ha ricordato anche quanto scrivi nell'incipit del libro, quando racconti come negli ultimi mesi di lavoro ti ritrovavi spesso a snocciolare un rosario di misteri dolorosi relativi alla vicenda QAnon. Collegamento che a sua volta mi ha riportato alla mente un nostro incontro verso la fine dell'estate 2020, quando in uno smizza sul Carso Triestino io e Andrea Alzetta, detto Tarzan, uno dei Belbo e di Ottalevi de Noaltri, ti avevamo ascoltato mentre raccontavi le storie tremende sui Boogaloo Boys. Sì. Effettivamente ci sono state diverse serate come quella che rievochi, nelle quali io sembravo un pazzo perché ero completamente immerso in questa ricerca, in questa stesura da anni, e quando mi chiedevano ma insomma questo libro che stai scrivendo, io cominciavo a mettere in fila aneddoti, a raccontare subculture strane. I Boogaloo Boys erano un fenomeno recentissimo, erano nati proprio durante i primi lockdown. Ci sono state diverse serate come quella lì e le rievoco in quel incipit, come guastare una festa, nel senso che dopo un po', se gli interlocutori non sono folli come me, dopo un po' mi fermavo. Invece se trovavo te e Tarzan potevo andare avanti ad libitum così. Allora, Nanni Balestrini, di cui ricorre proprio in questi giorni il secondo anniversario della morte. Autore cruciale, fondamentale, sempre un interlocutore possibile quando si scrivono oggetti narrativi non identificati, proprio per l'approccio che lui ha avuto nei confronti del romanzo. Praticamente lui ha scritto svariati romanzi non essendo mai romanziere, e questa è la sua forza, approcciando la forma romanzo anche lui da una direzione del tutto inattesa e facendoci sopra una sperimentazione formale peculiare, per cui sono romanzi a tutti gli effetti. Gli Invisibili è uno dei romanzi più belli del secondo Novecento italiano, però al tempo stesso sono sempre con un piede fuori dalla forma, con un piede fuori dal canone, e non saprei come rendere se non con questa immagine qui. Sono sempre sulla soglia del romanzo e al tempo stesso appartengono pienamente, la definizione è calzante. Io ho letto Gli Invisibili qualche anno dopo l'uscita, la prima edizione del 1987, non l'ho letto subito, anch'io ero negli ultimi anni del liceo, l'ho letto qualche anno dopo, quando già avevo conosciuto il latore originario della voce narrante che Balestrini manipola, riorganizza, divide in glasse e trasforma in flusso all'interno degli Invisibili, vale a dire Sergio Bianchi. Io mi immaginavo la voce di Sergio col suo accento lombardo, appunto di Tradate, il paese di cui si parla frequentemente nel romanzo e non è mai nominato, ma è Tradate in provincia di Varese, e si racconta, diciamo, l'epopea dei collettivi autonomi di quella zona della Lombardia, la repressione che li ha colpiti, e nella parabola personale di Sergio il carcere speciale, la rivolta in carcere speciale, la repressione subita. Cosa fa Balestrini? Balestrini fa la sua operazione consueta, raccoglie per lunghe lunghe ore, per tantissime volte di fila, il racconto fluviale di Sergio. Chiunque ci abbia trascorso assieme anche solo una serata sa che è un narratore fantastico. Poi cosa fa con quel materiale? Lo monta, lo taglia e incolla, decide di rompere l'ordine sequenziale cronologico della narrazione, di andare avanti e indietro nel tempo mantenendo due piani temporali differenti a capitoli alternati, li divide in lasse, come ricordavi tu, in strofe, in vere e proprie strofe, separate da una riga bianca tra l'una e l'altra, come se fossero strofe di una poesia, e sono divise per motivi ritmici, di andamento, di respiro, ma anche di senso. Quando si conclude una scena si conclude anche una lassa, oppure quando c'è un cambio di punto di vista si inquadra un personaggio e si sposta l'attenzione, il focus da un personaggio che ha parlato prima, si passa a uno nuovo, allora c'è un cambio di lassa. Tutto questo senza punteggiatura, come Balestrini già aveva fatto Vogliamo Tutto e nella Violenza Illustrata. Va anche oltre rispetto alla Violenza Illustrata, perché nella Violenza Illustrata alla fine di ogni lassa c'era un punto fermo, e la lassa successiva cominciava con la lettera maiuscola. l'invisibile abolisce anche questo, non c'è nemmeno il punto fermo alla fine di ogni lassa e quella successiva comincia con la lettera minuscola. Dopo un po' ci si dimentica completamente che non c'è la punteggiatura. Il libro te lo bevi, te lo divori, ha un ritmo impressionante, non solo, ma ti dà tutto quello che ti dovrebbe dare la scrittura romanzesca, perché c'è il dramma, c'è la catarsi, però scritta in quella forma lì, dimostra che in teoria non ci sarebbe bisogno della punteggiatura per raccontare una storia. Dopodiché non è che diventa un precetto, diventa una prescrizione, per cui aboliamo sempre la punteggiatura. No, però è possibile, dimostra che è possibile farlo. In un libro si può fare anche non dall'inizio alla fine, ma in alcune parti strategicamente scelte. Nel mio caso, la divisione in lasse è più simile a quella della violenza illustrata, che cito fin dal titolo del primo capitolo, scritto così, la virulenza illustrata, perché c'è il punto fermo alla fine della lassa, tranne nei casi in cui, e sono abbastanza frequenti, sarcasticamente una lassa si conclude con un hashtag realmente utilizzato sui social oppure inventato ad hoc. Appunto, volevo rendere da un lato la concitazione, come ho dichiarato, degli eventi nel maledetto 2020. È interessante perché 2020, avevo di fronte 2020. E dall'altro però anche, come dice il titolo del secondo capitolo scritto così, il secondo capitolo consecutivo, senza punteggiatura, dovevo anche raccontare un doppio burnout. Uno, il burnout di QAnon, perché con la sconfitta di Trump, QAnon, come l'abbiamo conosciuto nel suo periodo eroico, va in crisi. Comincia a sfaldarsi, c'è un esaurimento nervoso della narrazione e della community che porterà a quel canto del cigno, da molti scambiato in realtà per un inizio, in realtà era una fine di un ciclo dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. L'altro burnout di cui volevo rendere conto è quello che stavo rischiando io, perché stavo letteralmente andando in pezzi su questo libro, fisicamente e psichicamente. Io sono arrivato in fondo alla stesura che ero da raccogliere col cucchiaino, e anche questa cosa qui mi sembrava interessante far vedere che si tratta di argomenti, di temi, di problemi, di sensibilità che quando vai a maneggiarle è pericoloso, e questa roba qui la scrittura la doveva restituire. Chi legge il libro non lo sa, in realtà i due capitoli alla Nanni Balestrini, virgolette, sono stati gli ultimi che ho scritto, perché il sogno l'ho scritto prima. Mi serviva un ponte, mi serviva una soglia, appunto, un attraversamento di soglia tra la prima parte del libro, quella dove raccontavo l'affermarsi e l'estendersi di QAnon, raccontavo il sopraggiungere dell'emergenza pandemica, e intervallando a questa narrazione altri capitoli più teorici, anche se molto ibridati anche quelli, facevo l'inventario dei concetti utili a parlare di cospirazionismo. E il sogno, invece, la cornice del sogno ambientato al Bar Pilad e del pendolo di Foucault. Mi è venuto proprio in mente questa cosa, la violenza illustrata e Blackout furono due opere con cui Balestrini, la prima è un romanzo, la seconda è un poema, e sono state anche qualche anno fa pubblicati insieme nel medesimo volumetto da Deriva Prodi. Ricordiamo a chi ascolta che l'intera produzione, sia poetica sia narrativa, di Nanni Balestrini è ripubblicata in una collana apposita delle edizioni Deriva Prodi, lavoro meritorio. La collana si chiama Opere di Nanni Balestrini. Tutti i titoli, credo, che abbiamo finora citato sono disponibili nel catalogo di Deriva Prodi, anche gli invisibili che loro hanno ripubblicato. Mi è venuto proprio in mente che con quei due testi lui aveva fatto un'operazione, quella di raccontare col primo la violenza quotidiana, sistemica di quel periodo storico. Il libro esce nel 76, alla metà degli anni 70. Nella violenza illustrata c'è la violenza del massacro statunitense a My Lai in Vietnam qualche anno prima, raccontato dalla vedova di uno dei militari responsabili di quell'eccidio. Poi ci sono scontri tra manifestanti e polizia, scontri tra occupanti di case e polizia, episodi ripresi dai giornali. Balestrini fa un lavoro di rimontaggio e di risignificazione di un sacco di articoli usciti all'indomani di alcuni importanti scontri nella Milano di quegli anni, per far vedere le tante sfaccettature della violenza di quegli anni, che non è solo la violenza per le strade, ma è la violenza della crisi, è la violenza dell'austerity di allora, è una violenza di fine ciclo che si annuncia, che è dietro l'angolo. Un testo spesso ne sa di più del suo autore, quel testo del 76, ponendosi su un picco di conflittualità sociale, vede anche un avvallamento a seguire, secondo me. Non è solo senno di poi di chi legge. Blackout è di qualche anno successivo, era stato scritto nella sua prima versione come un testo che doveva essere eseguito in una performance da Demetrio Stratos. Demetrio Stratos poi è morto a 34 anni per una malattia incurabile nel 79 e quindi ci ha lavorato ancora un po' sopra Balestrini, lo ha sganciato da questa esigenza. L'ispirazione principale è il famoso blackout newyorkese di qualche tempo prima, quello che è successo durante quell'interruzione della corrente elettrica su scala cittadina, però ci sono anche le scene del concerto organizzato a Milano come benefit per le cure di Demetrio Stratos, che poi invece è diventato un concerto funebre perché poco prima che cominciasse è arrivata la notizia che purtroppo era troppo tardi perché Stratos era morto. Racconta la fine di un ciclo. La morte di Stratos è fortemente simbolica, c'è una dissolvenza in nero in quel testo. Allora mi sono detto, ecco cosa posso recuperare come ispirazione, citare direttamente quei due testi lì. La violenza illustrata e Blackout diventano la virulenza illustrata e Burnout, con un giochino ulteriore che pertiene alla storia della letteratura italiana e dei movimenti e delle avanguardie, perché se la seconda parte del libro è un lungo omaggio a Umberto Eco, quei due capitoli di attraversamento, come li hai chiamati te, sono un omaggio a Nanni Balestrini ed entrambi sono due ex membri del gruppo 63, di quella corrente neo-avanguardistica degli anni 60, chiamata anche i Novissimi, e sono i due che hanno scelto la forma romanzo, con risultati espressivi e scelte completamente diverse. Il pendolo di Foucault e gli Invisibili escono quasi contemporaneamente, uno nell'87 e l'altro nell'88, non potrebbero essere più diversi, però hanno un background comune nell'approccio al romanzo di due persone che non avrebbero mai pensato di scrivere romanzi, perché il gruppo 63 era alquanto ostile al romanzo romanzo, però entrambi poi finisce che li scrivono, anche se alla maniera loro molto peculiare. Quindi questa mia scelta di scrivere quei due capitoli così richiama anche questo. In fondo c'è una dimensione di oggetto narrativo non identificato, latente anche nel modo di scrivere romanzi di Eco e Balestrini. Ancora un paio di cose su quei due capitoli alla Balestrini, perché è davvero triste, ma anche significativo che a soli due anni dalla sua morte anche una parte dei movimenti che lui stesso aveva attraversato abbia dimenticato questo gigante della letteratura, e nel leggere l'omaggio che gli dedichi creda che tu stia facendo il verso al mio concittadino James Joyce. Quest'ultimo tra l'altro aboliva la punteggiatura per rendere il flusso di coscienza del pensiero individuale, mentre Balestrini, come dicevamo, lo faceva per risolvere sulla pagina scritta la più eminente delle funzioni sociali, la comunicazione verbale. Tant'è che la fonte di diversi suoi romanzi erano delle conversazioni registrate. Davvero triste, ma appunto significativo, ci si dimentica di Nanni Balestrini negli stessi anni e con lo stesso bisogno di rassicurazione, sintattica in questo caso, con cui la paura pandemica fa dimenticare che non esistono mai questioni sociali e quindi sanitarie che possano essere risolte con misure di polizia. Dicevo, e ora tu mi confermi, che l'impressione è che quei due capitoli siano come delle colonne d'Ercole, una soglia sulla quale c'è inevitabilmente, come nelle grandi storie, un guardiano, e io ho immaginato che ci fosse proprio Balestrini là a valutare se farti passare quella soglia, oltre la quale c'è quello che consideriamo, penso possiamo considerare, il fine ultimo delle narrazioni, la creazione di mondi, che è quello che tu poi fai nei capitoli successivi e finali del libro, quelli in cui ti ritrovi appunto al Bar Pilade negli anni 70 a dialogare con due dei protagonisti del Pendolo di Foucault, capitoli dove reggerai la forma del dialogo per centinaia di pagine, riuscendo in quella che a me sembra una vera e propria impresa di tenuta della scrittura. E parlo di tenuta perché da lettore in alcuni punti ho la sensazione che da un momento all'altro quell'incanto che crei, quel scenario perturbante, sia sul punto di collassare, come poi in effetti accadrà, salvo ritrovarmici di nuovo anche fisicamente, magari ad asciugare bicchieri in silenzio dietro al bancone nascosto nell'ombra di Pilade. È una prova di scrittura che va di pari passo con un'altra impresa stilistica, ovvero il modo in cui per tutto il libro riesci a maneggiare i tempi verbali, assegnando rispettivamente al trapassato prossimo e al passato remoto il compito di separare due fasi distinte ma interdipendenti dell'intero racconto, che detta così, ma anche come la dichiari tu apertamente nel libro, pare una roba facile, su cui ti chiedo invece di dire qualcosa che ne illustri un po' la complessità, ecco. Sì, dunque, mi sono trovato dall'inizio alla fine della stesura di questo libro a fare il funambolo, nel senso di ambulare sulla fune, quello che cammina su una corda con la pertica a bilanciarsi a svariate decine di metri d'altezza, perché bisognava mantenere l'equilibrio dopo aver fatto una scelta molto radicale in ciascuna delle due parti, più una terza scelta radicale, quella di cui abbiamo parlato prima, dei due capitoli senza punteggiatura che fanno da connessione, da ponte tra una parte e l'altra. L'equilibrio da mantenere nella prima parte, quella intitolata Romanzo di un'inchiesta, era lo stesso che ho cercato di mantenere, di conseguire e mantenere in Un viaggio che non promettiamo breve, il libro dove per la prima volta ho fatto questo esperimento, cioè quello di scrivere una storia al trapassato prossimo. Quindi non c'è furono, c'è erano stati. Questo perché anche questa è la conseguenza di una scelta di postura, di posizionamento. Da dove io sto raccontando questa storia? Dove mi piazzo per raccontarla? Ho deciso di simulare una narrazione da un futuro di là da venire, un futuro a cui noi non siamo ancora giunti, imprecisato, tra 10 anni, tra 20 anni, tra 30 anni, non è specificato, però da quel futuro lì l'io narrante si guarda indietro e ricorda un momento particolare, un periodo. In Un viaggio che non promettiamo breve era la primavera del 2016, mentre qui è l'autunno del 2020. All'inizio viene dichiarato nell'autunno del 2020. È il ricordo dell'autunno del 2020. E cosa faceva nell'autunno del 2020 questo narratore, questo io narrante, questo personaggio che interpreta me, che interpreta l'autore? Stava ripercorrendo le tappe della stesura del libro, della ricerca e della stesura del libro. Quindi stava a sua volta ricordando. Quindi il libro è la simulazione di un gigantesco ricordo di un ricordo. Un ricordo lungo e strutturato, perché di fatto da questo futuro imprecisato si ricorda quando, nell'autunno del 2020, si fece un'analisi retrospettiva di tutto il lavoro fatto fino a quel momento. È più, lo dico sempre, è più difficile da spiegare che da capire quando lo leggi. La sfida è stata quella di rendere questa scelta di doppio piano temporale la meno invasiva possibile. Non è che dovesse a ogni pagina gridarti in faccia: guarda, c'è il doppio piano temporale. No, doveva essere nascosta e ogni tanto dichiarata, giusto per ricordare che c'era. Nella mia intenzione, la scelta di tempi verbali dopo un po' doveva proprio passare in secondo piano. Chi legge dovrebbe potersi dimenticare che sta leggendo una narrazione inusualmente scritta al trapassato prossimo, che in effetti non si usa, è di solito un tempo che si usa per rendere conto di un flashback, di qualcosa successo anteriormente, ma è raro che sia più lungo di 2 pagine un flashback scritto al trapassato prossimo. Qui abbiamo 400 pagine tutte di fila scritte al trapassato e all'imperfetto, perché per i fenomeni continuati, iterativi, ripetuti e abituali, chiaramente uso l'imperfetto. quindi tra passato prossimo e imperfetto. In questa prima parte il passato remoto o il presente storico ci sono solo all'interno di citazioni di altri testi che io utilizzo. La sfida della seconda parte, quella intitolata QAnon, filamenti di genoma transatlantico collected from good authorities, è stata battere il record di eco nel pendolo di Foucault, perché anche nel pendolo di Foucault c'è una lunghissima ricostruzione storica, in quel caso sui Templari, che dura svariati capitoli, fatta dall'io narrante di quel romanzo, Casaubon, a Belbo e Dio Tallevi al Bar Pilade, ma è credo una cinquantina di pagine e già era vertiginosa. Io qui però dovevo raccontare una storia più complessa, perché non c'erano solo i Templari, ma c'erano tantissimi percorsi, e raccontarne la convergenza, il confluire in QAnon, secoli di storia e di storie, e quindi doveva essere più lungo. E allora la sfida è: riesco a tenere questo escamotage, questo stratagemma, questa cornice del dialogo che avviene in sogno per 200 pagine? Era una questione di vivacità del parlato, di usare in maniera strategica la tendenza di Belbo a interrompere l'interlocutore con battutine, calambur, domande inopportune. E tutto questo poi si scopre che ha un valore maieutico. Belbo sta aiutando l'io narrante a capire di più quello che sta raccontando, però lì per lì sembra uno che fa le battutine, sembra che stia trollando, invece no, è più sottile quello che sta facendo Belbo, sta assolvendo un compito, la sua missione. Il motivo per cui l'inconscio del narratore lo convoca in sogno è che gli sta chiedendo aiuto, non è ben consapevole, ma Belbo lo sa. Poi il mio inconscio mi ha portato al finale, che non raccontiamo per non fare spoiler, finale che riporta in forma letterale tutto quello che abbiamo detto finora sulla tenuta e sul crollo. Per concludere questa nostra chiacchierata e nel salutare e ringraziare te e chi ci ha ascoltato fino a qui, vorrei deviare un po' dalla conversazione riguardante le tecniche e i libri di narrativi, continuando però in questo omaggio spontaneo a Nanni Balestrini nel secondo anniversario della sua morte, e ricordando tra l'altro che Nanni fu tra coloro che dovettero rifugiarsi in Francia per sottrarsi al complotto reale, in questo caso contro i movimenti sociali italiani degli anni 70. E a un intervistatore che gli chiedeva se le nuove accezioni della punteggiatura da social network potessero rappresentare una sorta di neoavanguardia, Balestrini rispondeva con un secco no. Prima di tutto perché la punteggiatura è materiale statico e ci vuole ben altro per lasciare il segno, ma anche perché lo spezzettamento in bolle autoreferenziali, così come l'esibizionismo e il narcisismo insiti, come lui sottolineava, nelle stesse piattaforme, impedirebbero comunque che il cambiamento passi per Facebook o Twitter. A confermare questa lettura, che risale ancora al 2014, nell'ultimo anno caratterizzato dalla pandemia e dalla sua gestione securitaria e paternalistica, i social network hanno amplificato a dismisura la loro natura di ostacolo a qualsiasi cambiamento, che sia culturale o politico. Un'illusione questa che molti hanno coltivato, è un tema che tra l'altro attraversa tutto il tuo libro, riprendendo questioni già discusse anche su Giap. Sono diventate evidenti la tendenza al conformismo, che è indispensabile per mantenere e ampliare la platea dei follower, ma anche quel meccanismo perverso che voi Wuming avete chiamato tenere la parte, un obbligo alla coerenza narrativa anche con le cazzate che a tutti capita di dire, ma che nel contesto ipertestuale, iperconnesso dei social diventa una vera galera, perché rimuove la possibilità stessa del dubbio e relega chi ci casca a interpretare all'infinito un personaggio sempre tristemente uguale a se stesso. Un tale, prima dell'uscita della Q di complotto, è arrivato al punto di pubblicarne la copertina su Facebook per ironizzare sul fatto che, a suo dire, un complottista stava per pubblicare un libro contro i complotti, sostenendo inoltre che il sistema a cui si fa riferimento nel sottotitolo del libro stesso fosse un'entità misteriosa, in fondo un'espressione utilizzata solo dai teenager e appunto dai complottisti. Ho trovato l'episodio particolarmente interessante, prima di tutto perché accusarvi di complottismo per quanto pubblicato su JAP nei mesi dell'emergenza pandemica significa non aver letto con attenzione nemmeno i titoli dei diversi articoli. Cosa che fa il paio con il commentare un libro di 500 pagine dopo aver dato uno sguardo alla copertina, che è un esempio manuale di come tenere la parte e di come questo sia un meccanismo perverso almeno tanto quanto la disonestà intellettuale che rivela. Ti parlo di questo perché a ben guardare questi tentativi di disinnescare con parodie degne di un programma, ecco, di Antonio Ricci, il concetto di sistema, ho l'impressione che al fondo segnalino soprattutto la volontà da parte di chi li mette in atto di eliminare dal discorso e quindi di negare la possibilità stessa di movimenti che il sistema lo contrastano. Per fortuna sappiamo da tempo che tali tentativi falliscono ancora prima di raggiungere la carta stampata o gli schermi televisivi, figurarsi poi se nascono in contesti effimeri e volatili e quindi destinati anche al completo oblio di un social network. Movimenti reali che intendono abolire lo stato di cose presenti nascono e muoiono di continuo, e al riguardo vale la pena prendere di nuovo a prestito le parole di Nanni Balestrini, che in un'altra intervista diceva che una rivoluzione non è qualcosa che accade in un istante, ma invece composta da tracce, segni che conducono a qualcosa, che indicano una direzione. La rivoluzione, diceva, è un segnale che per scoppiare ha bisogno del suo tempo. Ecco, il problema, che in fondo è anche il lavoro di una vita di tante e di tanti di noi, sta semmai nel saper analizzare nella sua complessità il sistema da abolire. Giovanni Arrighi, Terence Hopkins e Immanuel Wallerstein pubblicarono nel 1989 il libro Anti-Systemic Movements, poi tradotto da Manifesto Libri, che iniziava con questo incipit fulminante. Il concetto di movimenti antisistemici presuppone una prospettiva analitica rispetto a un sistema. Il sistema preso in esame in questo volume è il sistema mondo del capitalismo storico, che ha dato luogo, a nostro avviso, al sorgere di una serie di movimenti antisistemici. Il contesto di questo processo è ciò che ci proponiamo di analizzare. Vorrei allora chiederti, a partire anche da queste parole, possiamo dire, anche per i più duri di orecchio, per chi è invischiato nelle trappole retoriche e psicologiche dei social, che il sistema di cui ti sei occupato nell'accudi complotto è lo stesso sistema mondo del capitalismo di cui parlavano Arrighi, Hopkins e Wallerstein? Sì, sì. Allora, dire che la parola sistema la usano solo complottisti e teenager è un'esternazione neoliberale e qualunquista che denota una discreta ignoranza di secoli di pensiero critico e anche di marxismo. Allora Marx era un teenager e un complottista quando in Das Kapital usa l'espressione capitalistische System, ma al di là dell'ipse dixit, che può lasciare sempre il tempo che trova, il concetto di sistema che c'è nel sottotitolo del mio libro, Come le fantasie di complotto difendono il sistema, è il sistema capitalistico, del capitalismo globale. Il capitalismo è un sistema storico, reca in sé tracce di tutti i processi che lo hanno formato. In ogni momento si possono trovare le tracce, si può fare la stratigrafia del capitalismo, della sua genesi, del suo sviluppo, delle sue crisi, dei modi in cui è uscito da quelle crisi. È un sistema planetario perché la storia del capitalismo è la storia della sua globalizzazione, è la storia del suo mettere in piedi un'economia mondo che connette tra loro paesi, stati-nazione che hanno sistemi politici diversissimi, tradizioni culturali diversissime, tra loro hanno posizioni diversissime all'interno dell'economia mondo. Alcuni sono paesi estrattori, alcuni sono paesi a cui le risorse vengono estratte, alcuni sono paesi di centro, altri sono paesi di periferia, alcuni sono paesi le cui popolazioni sono avvantaggiate nel mercato del lavoro mondiale, altri paesi di cui le popolazioni sono in massima parte svantaggiate, ma tutte fanno parte della stessa economia mondo, dello stesso sistema mondo del capitalismo mondiale. All'inizio degli anni 90 lessi Il capitalismo storico di Wallerstein, lessi Razza, nazione e classe di Balibar e Wallerstein, e poi quando uscì lessi Anti-Systemic Movements. Era un periodo, quando frequentavo storia all'università, poi mi sono laureato in storia contemporanea, in cui mi intrigava molto quel filone di ricostruzione dell'articolazione planetaria del capitalismo, chiaramente partendo da premesse marxiane, però poi sviluppandole. Nell'Acqui di Complotto, ad un certo punto, c'è una sommaria descrizione di che cos'è il capitalismo, che serve a dire che il capitalismo non è frutto di un complotto e non carbura a complotto mondiale, ma che va avanti per automatismi, per sue logiche di fondo. Ecco, quelle due paginette di descrizione sommaria della logica di fondo del capitale sono molto debitrici a Wallerstein, a Righi, a quel filone di studi lì. Semmai la critica che mi si può fare per il modo in cui descrivo il funzionamento del capitalismo non è quella di essere complottista, ma al contrario mi si può accusare di eccessivo determinismo, forse, perché io dico: è vero che tra le variabili, gli elementi di cui tenere conto, c'è anche il volere, la volontà, l'intenzione degli attori del capitale, dei settori, delle classi dominanti, di politici, amministratori delegati di multinazionali, ma non sono gli elementi più importanti di cui tener conto, perché comunque la logica di fondo del capitale spinge anche costoro e costruisce socialmente le loro intenzioni e la loro volontà. Quindi delle due mi si può accusare del contrario. Allora, per arrivare in maniera più diretta alla tua domanda sul perché ricostruire la logica del sistema in un libro sul cospirazionismo, perché io analizzo le fantasie di complotto in quanto narrazioni diversive, cioè che contribuiscono ad allontanare, in quanto espressioni, per quanto sia controintuitivo dirlo, sono espressioni dell'ideologia dominante, che contribuiscono ad allontanare l'attenzione al contenuto.